Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Beh, che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo sui motori, 3, 4, 5, allo spegnimento, il via della Gran Premio del Bahrain che scatta adesso con Hamilton che a buono spunto, Valtteri Bottas anche con Sebastian Vettel che cerca uno spiraglio, ma anche Ricciardo va dentro, deciso all'esterno di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel prova a prendersi la posizione e lo fa con cattiveria, si infila tra le due Mercedes, dentro anche Ricciardo, dentro anche Verstappen, grande partenza di Verstappen che ha infilato Ricciardo, Raikkonen aggressivo, ma troverà l'esterno, si apre la ventaglio in tre, allora Raikkonen viene bloccato per Verstappen. Ma cari amici, questa è già storia, perché siamo al terzo giro. La situazione non è cambiata, per la verità. Buona Pasqua a tutti. Claudia Schiattone qui con me, autrice di questo programma, e Paolo Corleoni in regia. Io vi aspetto, anche oggi è fino alle 19, è Pasqua, ma noi siamo in diretta, quindi mi aspetto che voi veniate a farci compagnia, come minimo. 800 24 00 24, non solo per scambiarci gli auguri, ma anche per scambiarci impressioni su questa corsa che parte in contemporanea con tutti i convocati Weekend. Stesso discorso per Manchester United Chelsea in Premier League, con Conte che ha 4 punti da difendere a questo punto di vantaggio sul Tottenham. Per quanto riguarda il Gran Premio, poi ci sono tante altre cose da dire, per esempio il Milan di ieri, il derby di ieri, c'è stato un comico pellegrinaggio di centinaia di giornalisti nella Chinatown cinese, manco un cinese che fosse interessato al derby, neanche a stanarlo con il rampino. È finita 2-2, come sapete. C'è chi dice che questo influirà sul destino di Pioli. Io non penso proprio che sia così, perché a meno che l'Inter non sia improvvisamente diventata il Palermo e che Suning non sia zamparinizzata, non può dipendere dall'esito delle ultime partite, positivo o negativo, il progetto di una squadra come vuole essere l'Inter. Ah, tra l'altro la Juventus ha vinto lo scudetto, praticamente più 8 sulla Roma con la doppietta di Higuain, come sapete. Anche questa è storia di ieri, di cui anche oggi parleremo, con Muntari crocifisso sui social network per quel fallaccio su Dybala, meritava l'espulsione secondo i più, secondo Zeman invece avesse giocato in un'altra squadra non sarebbe stato nemmeno ammonito, ma Zeman lo sappiamo ama andare un po' contro ogni logica, se vogliamo, da questo punto di vista. La Roma si è fermata con l'Atalanta, cui strapperà che si è per l'anno prossimo, è praticamente certo. Che si è fatto anche un bel giro per Roma, chissà che non abbia trovato pure casa, mi sembra un gran bel rinforzo. Quanto alla corsa, allora, Gran Premio del Bahrain con Bottas che partiva in pole position e che comanda dopo 7 giri la corsa. Abbiamo un primo ospite, facciamo subito degli auguri di Buona Pasqua. Io vi ricordo i contatti: 800 24 00 24, numero verde, Antonio Boselli da Sky. Buongiorno Antonio. Ciao, buongiorno a tutti, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Una gara che sta veramente facendo vedere delle cose fantastiche. Sì. Cose fantastiche tipo la partenza di Vettel, tanto per cominciare, che ha bruciato Hamilton. Sì, è stato molto bravo, perché praticamente alla prima curva ha preso l'esterno, perché poi nella curva 2 diventava poi l'interno, e così è riuscito poi a rubare la posizione a Lewis Hamilton. Adesso è praticamente a pochissimi centimetri da Bottas. C'era un po' di preoccupazione in casa Ferrari dopo la qualifica di ieri, perché Vettel si era beccato mezzo secondo quasi di stacco, e quindi c'era un po' di preoccupazione. La gente ferrarista già pensava di tornare indietro al dominio Mercedes, invece sta facendo vedere Vettel di essere in grandissima forma. Ma guarda, quello che ho detto tante volte che conta per me in questo momento, in questi primi vagiti del campionato, sono i numeri che stanno stampati sui fogli, cioè il passo gara, che sta a dimostrare come la Ferrari abbia il passo gara della Mercedes. Questa corsa non ci sta smentendo, no Antonio? Assolutamente, ma si era già visto il venerdì, e comunque sta facendo veramente un campionato incredibile Sebastian Vettel, e dimostra la bontà, come dicevi tu, anche della macchina. Poi se vogliamo, chiaramente tutti i ferristi facciano i scongiuri, però in questo momento Sebastian Vettel è leader del mondiale, perché essendosi messo davanti a Lewis Hamilton, in questo momento in una classifica virtuale gli è davanti. Un po' peggio invece Kimi Raikkonen, che si è fatto superare al via, in settima posizione adesso, bravissimo invece Verstappen in quarta posizione, ha recuperato due posti al via. Diciamo che Raikkonen deve cominciare a ingranare, perché lo abbiamo sentito anche il presidente Marchione la settimana scorsa, non era proprio contento. No, non era proprio contento, ma io sono dell'idea del nostro comune amico Leo Turrini, che sentiremo più tardi, che ha addirittura fondato un partito di cui io sono portaborse. Io confermerei comunque Raikkonen, perché chi mette accanto a Vettel? È chiaro che Vettel è la prima guida, Raikkonen è comunque un uomo d'esperienza in grado di fare punti e quindi di rubarne agli altri, quindi non vedo un problema secondo pilota alla Ferrari, onestamente, anche se adesso è settimo dietro a Massa, ogni tanto è un po' sfigato, ogni tanto è un po' arrabbiato, ogni tanto è un po' depresso o demotivato, però non vedo onestamente un problema secondo a guida alla Ferrari. Ma guarda, finché c'è un Sebastian Vettel così, effettivamente diciamo che c'è la possibilità comunque di lottare per il titolo mondiale, perché Vettel è un pilota solidissimo, 4 titoli mondiali, non è che devo stare a raccontarlo io quanto sia forte. Certo che però questa è una Ferrari che sta andando, perché ha dimostrato nelle prime due gare, ma anche adesso, c'è un ritmo forsennato lì davanti tra Bottas, Vettel ed Hamilton, e Vettel c'è, insomma. Questa Ferrari c'è, la cosa più importante, la notizia più importante è questa. Anche adesso è fantastico come si stiano veramente battagliando i due piloti della Mercedes, e a sandwich dentro Sebastian Vettel. Sì, grazie Antonio. Grazie a voi, buona grazie, Pasqua. Buona corsa e buona Pasqua. Dunque, in trenino stanno andando via Bottas, Vettel e Hamilton, che sono davvero incollati. Sta perdendo un pizzico di terreno, anche se ce la sta mettendo proprio tutta invece Verstappen per rimanere agganciato a questo sandwich tra le due Mercedes e la Ferrari. Ricordo, quarto Verstappen, quinto Ricciardo, sesto Massa, settimo Raikkonen, ottavo Hülkenberg e via via gli altri, dopo 7 giri dei 57 previsti tra le sabbie del deserto. Però c'è anche un'altra cosa da dirvi, sempre in cronaca. Allora, vi ho detto di United-Chelsea, io palleggerò tra Gran Premio, di cui vi terremo il polso in queste due ore fino alla fine, e ciò che sta succedendo in Inghilterra, perché c'è Conte che è sotto 1-0 con lo United, che dopo 7 minuti ha sbloccato con Rashford. Tiro di destro, palla indirizzata al centro della porta, e Conte è sotto 1-0, attenzione, perché il Tottenham è lì, così come in questo momento il tanto bistrattato Kimi Raikkonen, immagino Leo Turrini che si sarà alzato in piedi dalla seggiolina, dalla sua postazione di Sky, ebbene Kimi Raikkonen ha scavalcato Massa e dunque è sesto. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. Convocati. Tutti convocati. Al limite Luis Alberto tira in porta! Luis Alberto 2-2! Dobbiamo cercare alibi, però senz'altro sul risultato finale ha influenzato tanto la direzione arbitrale. Bravi che abbiamo rimontato due volte, però sono due punti persi che bruciano, perché per il gioco creato e le occasioni avremmo dovuto vincere. Verticalmente su Insigne, col tacco ha provato, palla deviata, Gaglia-Con, 3-0 Napoli. Come to Bowie, living in a bubble. So come to Bowie, gonna see the trouble. Noi bisogna pensare a far bene partita dopo partita e se ci riusciamo molto probabilmente la classifica finale ci potrebbe anche premiare. E la nostra media punti mi sembra straordinaria, eppure questi sono davanti, quindi vuol dire che hanno fatto un cammino straordinario anche loro. Mario Rui per Salah, sponda Dzeko! E la Roma pareggia con il solito Edin Dzeko! Con il solito Edin Dzeko! Ci portiamo a casa questo pareggio, però è inutile fare dei programmi adesso. È lei che mi dice che se non vince va via. Quindi. Va bene, no, io dico che noi dobbiamo lavorare bene queste partite qui e lavoreremo bene fino all'ultimo giorno per tentare di arrivare davanti al Napoli. Mandžukić sponda, Higuain! Il Pepita! Al momento la Roma può fare 90 punti, quindi noi bisogna arrivare a 91. Che segnale è stato mettere tutti e cinque lì davanti anche contro il Pescara? Beh, il segnale è che bisognava vincere la partita e con caratteristiche come attaccanti, con fuori piazza o questi. Dybala ha preso una botta, con leggera distorsione sono ottimista. Su queste note un po' disco music anni 80, schiattone, o mi sbaglio? È una delle ultime hit, allora sono io ad essere poco informato o troppo rocchettaro. Mi metto a ballare, mi alzo e mi metto a ballare. Su questa spremuta di ciò che è successo ieri in campionato, il dato politico è che la Juventus ha vinto lo scudetto, più 8 sulla Roma, bloccata sull'1-1 in casa dell'Atalanta. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, beh, adesso sono, direi, finiti, dai, è inutile che giochiamo. Allegri ha fatto giocare tutti per tenerli caldi in vista Barcellona che ieri, insomma, ha vinto ma con fatica 3-2, alimentando di nuovo dei dubbi. Io non ne ho invece sul fatto che la Juventus ha degli scongiuri pasquali, ragazzi, passerà questo turno di Champions. Paolo De Paolo, direttore di Tutto Sport, buongiorno. Buongiorno a tutti, auguri. Ovviamente auguri. L'attenzione di tutti era sul derby cinese dell'ora di pranzo, che io nei giorni scorsi ho definito un po' deprimente vista la posizione in classifica delle due milanesi, e rimango di quell'idea nonostante il 2-2 con col finale che abbiamo visto. Però il calcio italiano ha bisogno di una Milano calcistica forte, o mi sbaglio, direttore? Se no andiamo avanti così per anni e anni con la Juve che sta dominando il campionato. No, sono d'accordo perché non è stato strabiliante il gioco, non c'è stata una presa di posizione netta da parte di una squadra per quanto riguarda la conduzione della partita. Per un tempo ha prevalso l'Inter, poi si è spenta completamente anche in seguito a dei cambi, e questo qualche critica o qualche, diciamo, punto interrogativo su Pioli c'è, per cui è cambiato proprio l'assetto dell'Inter in campo. E poi, se si vanno a contare alla fine i giocatori presenti in area dell'Inter e quelli del Milan, sull'ultimo calcio d'angolo, ulteriori domande uno se le fa, insomma, c'erano almeno 3 o 4 giocatori che erano fuori dall'area dell'Inter, sì. Quindi, insomma, un po' di mancanza di concentrazione da parte della squadra fino all'ultimo secondo c'è stata. Sì, l'Inter, come diceva Asa Nikolić, indimenticabile allenatore storico di basket, ha riempito il secchio di latte, poi ha dato un calcio al esatto. Secchio e lo ha rovesciato per terra perché è stata incapace di difendersi. Però, direttore, adesso si dice Pioli sì, Pioli no, si fa la danza intorno a Pioli come se fosse un Palermo qualunque. Però una squadra come l'Inter, che secondo me, io immagino, la proprietà voglia costruire per competere con la Juventus già dal prossimo anno, non sta a guardare il punto in meno o il punto in più. È chiaro che entrare in Europa League è importante, ma non credo che dipenda da quello il destino di Pioli. Sarà un disegno più grande, immagino. Ma anzi, al contrario, io credo che sia più conveniente partire da un anno zero in cui magari non ci sono nemmeno competizioni e che si possa in qualche modo ricostruire realmente non solo un gioco, ma anche una continuità di risultati che possa portare a un traguardo finale. Io di sicuro non è che posso né condannare né manifestare grande apprezzamento per Pioli. diciamo, stando proprio alla cronaca, si può notare che la squadra sicuramente è riuscita ad avere un assetto e una fisionomia dopo un lavoro che c'è stato da parte di Pioli. Ma ci mancherebbe. Però la delusione c'è, cioè nel senso che non è questo che ci si aspetta dall'Inter. E la delusione è un pochettino ancora maggiore quando si può iniziare anche, non solo con dei ragionamenti di fantasia, ma con qualche piccolo dato di fatto, sospettare che non vada proprio tutto benissimo nello spogliatoio dell'Inter. Allora, a fronte di questo e quindi di una non vicinanza proprio da parte della società nei confronti della squadra, dei problemi che c'è nella squadra, e questo nessuno vuol mettere in dubbio il lavoro dei dirigenti, per carità, ma sicuramente un qualche punto interrogativo su quello che succede nello spogliatoio dell'Inter ci deve essere, ma questo anche da parte degli stessi dirigenti dell'Inter. Lo si è intuito, insomma, da tante dichiarazioni, da tanti atteggiamenti, ma anche da una certa leggerezza nel commentare alla fine da parte di Pioli. Insomma, io non voglio vedere certo allenatori arrabbiatissimi alla fine della partita del genere. Sì. Ma quel risultato, insomma, avrebbe fatto girare le scatole a chiunque, ecco, allenatore a parte. Quantomeno per il modo in cui è arrivato. Quantomeno per il modo e il tempo in cui è arrivato. Peraltro abbiamo sentito dichiarazioni come dire, insomma, sì, dobbiamo essere più concentrati, dobbiamo stare più attenti, è stata colpa nostra, ma insomma, poca roba davvero. No, mi sembrano due squadre che mancano clamorosamente di leadership e di personalità. E quella si può anche acquistare sul mercato con i giocatori giusti, e credo che verrà fatto. 30 secondi di... no, 30, insomma, vi aggiorno sul Gran Premio. Dopo 13 giri è cominciato già la danza dei pit stop e si è fermato, si sono già fermate le due Ferrari per il pit stop era l'appunto, ma soprattutto si è levato dalla corsa con un dritto in una curva Verstappen, che dunque è uscito dal Gran Premio del Bahrain. In questo momento, per la cronaca, dopo 13 giri, Bottas, Hamilton, Ricciardo, Massa, Hülkenberg, Vettel e Alonso, che è nono, e via via tutti gli altri. Direttore, sullo scudetto della Juventus, vabbè, vogliamo giornalisticamente per comodità tenerlo aperto il discorso oppure evitiamo? Ma sì, perché poi siamo sempre i primi a fare anche la figura di coloro che hanno in qualche modo annunciato un pronostico sbagliato, per cui io sono cauto anche così per rispetto non solo alla scaramanzia ma anche ai dati statistici. Ricordiamo che la Juventus ha perso uno scudetto con 9 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine, adesso ne ha 8-8, quindi insomma sicuramente è innegabile che questo ulteriore vantaggio, questo ulteriore allungo dia ancora maggiore chance alla Juventus, ma persino in vista della Champions sicuramente la farà giocare più tranquilla. Intanto mi sembra siano buone notizie per Dybala, perché non si tratta di nulla di serio e sarà in campo a Barcellona. Intanto Luis Enrique mi ha fatto abbastanza sorridere alla conferenza stampa che ho sentito ieri. Urla nel bosco per farsi passare la paura, dicendo ma giochiamo con 8 attaccanti, ma col Paris Saint Germain la situazione era ancora peggiore, l'abbiamo ribaltata. Sì, però la Juventus è qualcosa di diverso dal Paris Saint Germain. Beh sì, insomma, dichiarazioni un pochettino anche diverse tra di loro. A caldo aveva dichiarato appunto che non era più possibile una remontata come quella lì con il Paris Saint Germain, quindi molto sconforto. Poi due giorni dopo riprende un po' la situazione in mano, ma proprio per dare un pizzico di conforto ai suoi giocatori. Lo si capisce che è una dichiarazione fatta un pochettino per l'ambiente più che per reale convincimento. Ma sì, poi dire però io non ho sbagliato niente in quella partita lì. No, se ci regala di nuovo un Matthieu contro Quadrado, siamo tutti contenti. E anche un Mascherano in quel modo. Mascherano in quel modo, sì. Io sì, non ho mai visto vedere così Mascherano. Ti faccio sentire una dichiarazione di Zeman e tu me la commenti. Sì. Ma Montale è il suo modo di giocare, lui gioca così da tanti anni, magari si giocava nel Milan, nell'Inter, questi falli non vengono ammoniti, ma con noi è normale, visto che è fallo da ammonizione, l'ha presa. Cosa dici? Ma guardate, io per carità, con il Boemo ho un rispetto per quello che è stato come allenatore, nel senso che ha la conoscenza, ha una filosofia, un modo di affrontare la vita che è sicuramente singolare, originale e simpatico. ma a volte non è che lo apprezzo fino in fondo per certe battute che fa, perché questa per esempio era del tutto fuori luogo, insomma non mi sembrava né opportuna né il momento di fare una battuta del genere, insomma hai perso con un certo distacco, no? Hai perso senza offrire nulla, poco più di 10 minuti all'inizio con Caprari, qualche altra piccola azione eccetera. In questo momento insomma bisognerebbe dire invece che Mutari ha sbagliato nell'eccesso di foga, nell'atteggiamento, nel modo di andare a affrontare un avversario, insomma sentivo addirittura dei commenti di chi guardava, seguiva la partita e diceva vabbè, ma forse l'arbitro ha avuto in qualche modo un'attenzione nei confronti della squadra che sta perdendo. Ma che significa questo? Cioè, ma si può avere un'attenzione nei confronti della squadra che sta perdendo e quindi non ammonire una seconda volta un giocatore che meritava in maniera sacrosanta quell'ammonizione? Certo. Ma ne va della classifica dei cannonieri, magari Guaini poteva segnare un terzo gol, ne va di tutto, insomma, di un andamento di una gara, insomma. No, ma rimanendo alla fredda cronaca, certamente quel fallo andava sanzionato, è stato un fallo brutto, pesante, e che ha rischiato di azzoppare Dybala, ma non perché si tratta della Juventus o di Dybala, perché esatto. Deve giocare in Champions League, esatto. Anche avesse giocato contro l'Empoli o contro il Crotone, era un fallo che meritava quel tipo di trattamento. Grazie direttore, buona Pasqua di nuovo. Grazie a voi, auguri, arrivederci. Allora, io vi aggiorno sulla corsa perché sono successe diverse cose. Si sono fermate anche le due Mercedes per il pit stop, 15 giri percorsi. Ora siamo in regime di safety car con Vettel in testa al Gran Premio, seguito da Bottas, quindi Ricciardo, quarto Hamilton, quinto Massa, sesto Raikkonen, settimo Hülkenberg, ottavo Ericsson, quindi Perez, Grosjean, con Alonso, Palmer, Kvyat e Verlaine, questi i corridori rimasti in gara. Vi ripeto, safety car in pista, 15 giri sui 57 previsti già percorsi e safety car. Per quanto riguarda invece Manchester United Chelsea, siamo alla mezz'ora del primo tempo e lo United di Mourinho conduce sempre 1-0 sul Chelsea di Conte. Nico da Bari, poi ci fermiamo un attimo. Buonasera. Buonasera Nico, buona Pasqua. Buonasera. Auguri, auguri di Pasqua a tutti quanti, auguri. 800240024 in diretta sempre, oggi giorno di Pasqua, domani giorno di Pasquetta, tutti convocati ogni santa domenica, ogni santo giorno. Buonasera di nuovo. Niente, io volevo aggiungere un paio di cosette sulla Juventus. Sì. Primo, secondo me la Juventus, cioè, ancora lo scudetto secondo me non l'ha vinto, perché è vero ci sono 8 punti di distacco sulla Roma, però non è che ha bisogno, non me ne vogliono i tifosi della Juve perché anch'io sono juventino, però basta un paio di pareggi senza perdere le partite e un paio di vittorie della Roma e la Roma arriva subito a ridosso della Juve. In teoria sì. Mai dire mai. E poi per quanto riguarda il Barcellona, è vero, all'andata abbiamo vinto 3-0, perfetto, però basta, non so come dire, un minimo, un calo di concentrazione, che quelli li abbiamo visti contro il Paris Saint-Germain, sono pericolosi in casa, cioè, ci siamo dimenticati della vittoria col Paris Saint-Germain. E come si dice, anche lì mai dire mai, volevo solamente aggiungere questo, grazie. Sì, io aggiungo, grazie a lei, io aggiungo, occhio malocchio, prezzemolo finocchio per fare la con un suo noto concittadino, insomma dai, la Juve per perdere il campionato deve implodere, non c'è nessun segnale di implosione da parte della Juventus, anzi possiamo usare tutta la scaramanzia che vogliamo, la scaramanzia di cui era chiaramente ripiena questa telefonata. La Roma non, insomma, rimaniamo alla teoria, può raggiungere la Juventus, è vero che ha la Juventus in casa, però la Juventus mi sembra in pieno controllo della situazione con 8 punti di vantaggio, 6 partite, e non mi sembra il tipo di squadra in grado di mollare né lo scudetto né la qualificazione con il Barcellona. Pronti ad essere contraddetti dai fatti, poi l'ascoltatore di Bari fa il nostro gioco giornalistico, che è quello di tenere tutti sospesi perché dobbiamo vendere i giornali, perché dobbiamo fare audience, perché dobbiamo creare suspense. Vettel, Bottas, Ricciardo, Hamilton, Massa, Raikkonen, questi primi 6 del Gran Premio del Bahrain, mentre siamo ancora in regime di safety car. Ci fermiamo un attimo. Tutti convocati. I just can't get enough. I just can't get enough. Gagliardini a lanciare proprio Candreva, che è in posizione regolare, scappa via a De Sciglio, non è uscito da Donnarumma, Candreva! Icardi e Perisic, grande scambio, attenzione a Toato che scappa via in area di rigore, cerca il centro Icardi che si sblocca, Mauro Icardi fa 2-0. Bassuso da solo, si mette in proprio col destro, il cross, la deviazione volante di Alessio Romagnoli che rimette il Milan in partita. L'angolo si batterà, poi finirà il derby, ma con l'emozione finale, tutta San Siro in piedi, tutti in piedi anche sul divano, arriva il cross, tocca a Bosca, poi Zapata, la palla è entrata, è 2-2, è 2-2, ha segnato il Milan al 97esimo, è successa una cosa incredibile nel primo derby cinese. Sinceramente non pensavo se il lamento fosse sul gol o non gol, poi la tecnologia fortunatamente c'è, non capisco il minutaggio, io ho visto una squadra negli ultimi 20 minuti, 25 minuti dell'Inter che perdeva tempo moltissimo a partire dal portiere, so che l'arbitro se n'è accorto e ha dato un recupero adeguato. Credo che Montella troppo spesso ogni tanto li campeta di pallare troppo spesso degli avversari. No, è stata una fortissima emozione, infatti sono andato anche oltre misura e ho pareggiato un po' l'esultanza dell'Inter che in parte, dell'andata che in parte avevo un po' criticato, e quindi faccio un po' retromarcia e quindi capisco perfettamente la gioia che hanno provato all'andata e adesso me la godo io questa gioia. Parlare di squadra molle non l'accetto, lo sviluppo della gara è stato uno sviluppo della gara secondo me intelligente, secondo me lucido, che ci penalizza troppo dal punto di vista del risultato per gli ultimi 10 secondi piuttosto per quello che siamo riusciti a fare durante gli altri 95. E questo è il succo del derby invece, mentre io sto sulla cronaca, 20 giri sui 57 previsti in Bahrain, Vettel, la safety car si è levata dalle scatole, è ricominciata la battaglia vera, Vettel continua a guidare la corsa davanti a Bottas ed Hamilton, quarto e Massa, quinto e Raikkonen. Buona Pasqua, nell'ordine, a Pierluigi Pardo. Diga. A Fabrizio Biasin. Buona Pasqua a voi, buona Pasqua a tutti. E a Franco Ciccio Ordine, un grande classico dell'erotismo calcistico, Biasin Ordine. Le uova sono tutte per voi. Le uova sono tutte per voi. Ragazzi, cosa state facendo? A cominciare da Pardo? Io sto al mare. Sto al mare? Sì. Bene. Biasin, che stai facendo? Sta di peggio, diciamo. Io ho appena finito tazza di fragole con panna montata, non dico altro. Ordine? Io sono reduce da un giro in Lomellina e adesso colomba con caffè. Vi odio tutti. Abbastanza. Io ho vinto io comunque. Come? Hai vinto tu? Perché voglio dire, loro parlano di colomba, colomba è le fragole con la panna, voglio dire. Scusa, riporti delle fragole con la panna. Molto anni 80. La splendida cornice di Serapo mentre Pardo è già in clima gommone. Pardo è già in clima gommone, ma domani alle 9 c'è un treno perché domani sera c'è Saga, quindi insomma, voglio dire, non è che devi portare sulle spalle lo studio, cioè, ma tu sai che sono un grande professionista e faccio lezioni, spesso mi rinisco con me stesso e non mi trovo d'accordo, quindi cioè perché lo so. Allora ragazzi, andiamo sul derby di ieri, derby cinese, che ieri dicevo ci sono stati diversi comici tentativi di collegamento da parte di varie radio e TV con la Chinatown milanese. Ai cinesi di Chinatown di Milano del derby gliene importava sega, e se visto e capito benissimo. Per loro era un sabato di lavoro qualunque. Una cosa che mi fa molto ridere è il fatto che si scriva, alla luce di questo risultato, ad esempio Zampata a Pioli sulla Gazzetta, insomma si metta in discussione i progetti futuri dell'Inter in funzione dei risultati attuali della squadra, quasi fosse un Palermo qualunque. Secondo me Se i piani sono grandi, come immagino Suning abbia grandi piani, il futuro di Pioli non dipende dall'esito di queste partite. Non so come la pensate voi. Però, obiezione, vostro onore. Dica. Anch'io obiezione. Dica, obiezione pure io. Benissimo, molto bene. Dica, ditemi, ordine se allora, ha obiettato allora, per primo. Ha obiettato per primo. Allora, l'obiezione numero uno è la seguente. Suning ha preso malvolentieri o comunque masticando amaro Pioli, che è stato scelto secondo me merita, con merito da Ausilio, perché comunque considerava questa soluzione una soluzione di intermedia, di passaggio verso una scelta molto più impegnativa, molto più tra virgolette importante. E quindi però questa è una spiegazione, la prima. La seconda, e stai dicendo quello che dico io, cioè che no, il futuro di Pioli non dipende dal finale di questa stagione. Esatto. No, sì, insomma, comunque loro cercano una prima donna in panchina, così come cercano prime donne per la squadra. Seconda obiezione, la stragrande maggioranza del popolo di tifosi interisti, a eccezione di Biasin e del parentado di Biasin, sono tutti contro Pioli per il 2-2, considerandolo colpevole di quella scelta tecnica che non è sua, ma che è stata suggerita, chiesta a viva voce da Medel, di difendersi a 5 negli ultimi 10 minuti, 12 minuti della partita. Terza e ultima obiezione è la seguente. Ma c'hai parenti in casa Medel, Franco? Che ti hanno detto no, no, in casa Biasin c'ha parenti. Perché... sì, sì. Allora, terza e ultima obiezione. Io ho notato e ho colto nel secondo tempo di ieri un calo fisico che secondo me è preoccupante, che unito a quello del declino di risultati da Torino in avanti, segnala e testimonia il fatto che la squadra ha consumato molte energie, oltre che fisiche, soprattutto nervose, nel fare la rincorsa per recuperare quel distacco iniziale. Allora, queste le tre, i tre punti di Franco Ordine. Mentre io per la cronaca vi dico che Vettel sta comandando con d'imperio il Gran Premio in Bahrain davanti a Bottas ed Hamilton, quarto Massa, quinto Raikkonen, e vi dico che il vostro amico Conte sta perdendo 1-0 contro il Manchester United, gol di Rashford al settimo minuto, siamo quasi alla fine del primo tempo e gli restano 4 punti da difendere sull'attacco del Tottenham, quindi Premier League tutt'altro che chiusa a differenza del campionato italiano. Obiezione di Pardo. Il ricordo è che 2 punti in 4 partite sono 2 punti in 4 partite, cioè non è il pareggio nel derby, cioè l'aspetto diciamo sentimentale, romantico, e che rende la partita, che rende il derby una partita diversa da tutte le altre, magari i cinesi non ce l'hanno oppure lo percepiscono perché comunque la partita ovviamente è stata irradiata in tutto il mondo e soprattutto in Oriente, e non è Inter Sassuolo, con tutto l'affetto per il Sassuolo. Però 2 punti in 4 partite sono un dato. Allora, Pioli arrivava da una situazione nelle ultime gare già un po' di affanno e aveva bisogno di una vittoria bella e convincente al derby per potersi rilanciare. Il calcio è questo, mi rendo conto che è banale dirlo e mi sento anche un po' cinico e un po' banale dire queste cose, però insomma l'abbiamo detto, Pioli aveva tutta la strada in salita, ha fatto un buon percorso, sicuramente l'esperienza all'Inter di quest'anno comunque andrà a finire, se non ci sono stracciali finali gli farà bene, cioè farà bene alla sua carriera, gli darà opportunità. Io sono convinto che Pioli quest'anno, questi mesi siano utili per lui, cioè, Firenze, Ludo Di Francesco, ma cioè, comunque voglio dire, secondo me oggi Pioli ha più mercato di quanto ne poteva avere 6 mesi fa, però è pure vero che nelle ultime 4 partite molto dell'impresa di Pioli all'Inter c'è annacquata, perché un litro di meraviglioso salsicaia e ci butti dentro un po' d'acqua è un po' meno buono. Questo è evidente, però continuo a pensare che non dipenda dal finale di questa stagione, no, nemmeno... Infatti, Carlo, scusatemi, sì, è evidente che Pioli è in discussione oggi, come era in discussione all'inizio della sua esperienza all'Inter, ma anche dopo il 7-1 all'Atalanta, perché non bisogna nascondersi, è stato preso per completare un percorso orrendo iniziato l'estate scorsa, ha provato a rimettere in piedi la stagione, per un po' c'è anche riuscito, e a fine stagione verrà giudicato il suo operato, quindi è molto probabile che verrà salutato e messo in un angolo rispetto a qualcun altro, questo è chiaro, però mi sembra, secondo me, un pochino pretestuoso dargli tutte le responsabilità del caso. No, il fatto che gli vengano contestate, però, per esempio, le sostituzioni di ieri, secondo me bisogna andare a vedere anche cosa è successo ieri. Sì, allora ragazzi, fermiamoci un attimo per il traffico, state con me ancora qualche minuto, visto che siete in località turistiche o degustando fragole, io invece sono qui davanti al microfono, quindi fatemi compagnia per cortesia. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Par d'ordine di che cosa ha detto, caro Mantella? Lei si è guadagnato il suo bel rinnovo anche il prossimo anno? No, questo mi è stato detto, trasmesso ieri indirettamente da persone in conferenza e direttamente dalle persone, ma anche dalla proprietà. Metteremo giù delle idee senza perdere di vista questo finale di campionato che è fondamentale per noi. Ausilio ha detto: portiamo avanti le idee con Pioli per l'anno prossimo. Lei crede che il suo futuro sia legato all'Europa League? Ma io credo che il mio futuro sia legato alle scelte della proprietà, che dovrà giudicare non una partita sola ma tutto il percorso, e il percorso non è ancora terminato, quindi vedo e sento che tutti siete molto preoccupati per il mio futuro. Secondo me portate un attimino pazienza, che presto si saprà. Bardo, ordine Biasin, Pioli più realista del re. No, ma voglio dire, Biasin è un critico televisivo e quindi voglio dire, abituato a vedere tutti i giorni gli ascolti dei programmi commerciali, e sa per esempio che oggi c'era tutto un dibattito su quello che sarebbe successo sabato sera fra De Filippi e Milly Carlucci. Cioè, vero. Qualsiasi stiamo parlando di due regine della TV italiana, di due regine assolute. Nel caso di Maria, mi permetto di dire, proprio stiamo parlando dei fenomeni assoluti. Eppure il risultato conta, quindi conta per Mariano Filippi, figuriamoci non conta per Pioli, scusate il ragionamento un po' astratto, il risultato conta, però è anche ci sono dei fortunati che vivono solo diciamo in margine e che hanno la fortuna di essere giudicati solo dalla critica, e ci sono persone. Però è anche vero che non si valuta la puntata in sé, si valuta tutto il programma, quindi è giusto anche quello che dice Pioli. Probabilmente Pioli si farà da parte, verrà messo da parte, ma questa è una cosa che vedremo non domani, non dopodomani, alla fine del suo percorso, che è un percorso, diciamolo, difficile, non per colpa sua. L'unica controindicazione all'ennesima sostituzione di casa Inter, secondo me, è il fatto che cambiando continuamente, come è successo negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi, Mancini, De Boer, l'allenatore della Vecchi. Primavera, Vecchi, poi Pioli, adesso il quinto in pochi mesi, si commette l'errore che ha commesso il Milan negli ultimi anni, e cioè passare da Allegri fino a Mihajlovic e Brocchi, cambiando un paio di allenatori all'anno. Così si accatastano giocatori su giocatori, metodi di allenamento su metodo di allenamento, e non si costruisce mai nulla, si ricomincia sempre dalle fondamenta e rimani sempre lì. Posso dirti quello che farei? Sì. Allora, se l'Inter ha realmente la possibilità di arrivare a un allenatore top come quello che sta perdendo adesso 1-0 contro il Manchester United, oppure a Simeone, cioè se l'Inter ha la possibilità di fare un salto, certo, di qualità vero, reale ed effettivo, secondo me, con tutto l'affetto e la stima per Pioli, questa soluzione ci sta. Se l'Inter deve cambiare tanto per cambiare, allora a quel punto Pioli va tenuto, cioè il ragionamento che stiamo facendo è questo. Sono d'accordissimo con te, ma anche perché andiamo a vedere quello che è successo dopo il 2010, cioè tutti gli allenatori post Mourinho sono stati criticati e massacrati, tutti, non ce n'è uno che si sia salvato, l'unico che si è salvato è proprio Mourinho, ma sapete perché? Perché il giorno dopo la vittoria ha preso e se n'è andato, altrimenti staremmo parlando anche di Mourinho contestato. Assolutamente. Sì, no, ma io sono, e qui mi trovo perfettamente allineato. Io credo con che la programmazione e la pazienza servano, però credo anche che servano i risultati. voi sapete, sì, però, la cioè, prima per Ranieri, sì. Io quest'anno quando l'ho esonerato, ragazzi, posso farvi la domanda cruciale, cosa fa l'Inter l'anno prossimo? Cioè Suning in questo momento nessuno, cioè pochi possono saperlo, però cosa ha in mente? Ha in mente di costruire una Ferrari che in questo momento sta è in testa al Gran Premio del Bahrain con Vettel con 6 secondi di vantaggio su Hamilton e 9 su Bottas. Hamilton ha scavalcato Bottas, ma Vettel sta andando con una spia, o ha in mente di programmare di nuovo il futuro piano piano, eccetera eccetera, perché la chiave risposta. È questa risposta, Frank. Vai, risposta. Vai. Allora la decisione, il quesito è pertinente. La prima risposta che ci deve dare Suning è la seguente: il mercato lo farà fare a uno che se ne intende, che è capace, che non va a prendere né Gabigol a 30 milioni e nemmeno João Mario a 45 come è successo con Kia nell'estate scorsa, o lo fa fare a Ausilio che ha portato comunque un pezzo italiano che serve, giovane di futuro come i Gagliardini? Questa è la prima risposta che dobbiamo ottenere dalla società. La seconda risposta è: faccia un mercato impegnativo come l'ha fatto quest'anno, senza però pensare che si possono fare le grandi squadre solo e soltanto con i nomi sventolati dai giornali, perché quella è la strada sbagliata. Assolutamente d'accordo con Franco, cioè l'idea è di Zhang è quella sicuramente di investire già dalla prossima estate, lo ha fatto anche l'estate scorsa, poi ci sono i paletti dell'UEFA, ma quelli se vuoi li raggiri in qualche maniera. Però l'importante è scegliere con criterio e avere le idee chiare. Io una risposta a Franco gliela posso dare. Io credo che l'intenzione di Zhang sia quella di continuare con l'ausilio. Molti si domandano perché non arriva il rinnovo del contratto, e questo è il dubbio, siamo a fine aprile, a un certo punto dovranno anche dirlo. Però secondo me difficilmente commetteranno lo stesso errore della scorsa estate, perché la scorsa estate, tra acquisti multimilionari ma soprattutto accumuli i giocatori in rosa, si è arrivati ad avere 30 giocatori e un affollamento assolutamente ingestibile da parte di De Boer, si è creato un problema in inizio stagione. Ragazzi, io vi auguro buona Pasqua, vi saluto, vi ringrazio e vi lascio ai vostri impegni. Ciao ragazzi, grazie. Piacere Carlo. Buona digestione. No, grazie. Siete tutti molto gentili, vi voglio bene. Siete tutti molto gentili. Portatemi qualcosa. Okay, grazie per la scelta. Grazie, Fabrizio, grazie. Non hai bisogno, devi fare un po' di dieta, Carlo. No, che dieta? Che stai? No, sono in forma olimpica. Ci vediamo se, con il vostro permesso e con il vostro benestare, ci vediamo venerdì quando saremo a Radio City, e mi hanno garantito, qualcuno mi ha detto che ci saranno anche ordine di biasine, attenzione. Sul palco, sul palco. Domani ci sentiamo, ovviamente, Pierluigi. Sei tu che sei in vacanza, io sono qua. No, ma che vacanza? Infatti sei lì giusto per recuperare, ritorno lungo, ritorno lento, ritorno trasferta lento. Va bene, ciao ragazzi. Ciao. Allora, Vettel, Hamilton, Bottas, Raikkonen, Ricciardo, Massa, dopo perso il conto dei giri, siamo grosso modo al trentesimo dei 57 previsti. Fatto sta che Vettel sta dominando questo Gran Premio del Bahrain. Ma mi dicono dalla regia che siamo collegati in diretta con l'ormai ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Buonasera, sono Carlo. Buonasera, Giacomo. Buonasera, un saluto coeso e molto positivo agli amici di Telenorba. Quale Telenorba? Siamo a Radio 24, presidente. Capisco, come lei sa, caro Variale. Ma che Variale? Io sono Carlo Genta. Come lei sa, dicevo prima che lei cortesemente mi interrompesse, mi trovo in questo santissimo giorno di Pasqua in Vaticano. In Vaticano? Ma per fare cosa? Per festeggiare il closing? Ma c'è stata una fuga di notizie? Ma no, fuga di notizie di che? Tutto il mondo sa che ha venduto il Milan, fuga di notizie. Ma no, quella è oramai acqua passata, roba vecchia, scusatemi, c'è il Santo Padre. Attenzione, uno scoop in diretta. Ciao Francesco, vecchio mio, come te la passi? Carissimo Silvio, mi fa molto piacere vederti dopo tante promesse. Allora, Francesco, Franchi per gli amici, questo, ecco, guarda, questo è il contratto per il closing, guarda, ecco, verifica se le cifre corrispondono. Ma, ecco, ma di che closing guarda, sta parlando? Scusi, allora, Berlusconi che sta parlando con il Papa di closing? Mitico Silvio, mi sembra, sto leggendo che sia tutto a posto, posso firmare, possiamo firmare. Ecco, guarda, Franchi, questo è il momento più coeso e più positivo della mia vita e con un'ottima organizzazione di gioco. Adesso è ufficiale, Bergoglio ha firmato. Ha firmato che cosa? Che cosa ha firmato? Cosa ha firmato? Cosa? Ha firmato il closing. Il closing. Da oggi io sono ufficialmente Papa e il Vaticano è mio. Perché insomma avrei investito i soldi di Li Yongong e comprato tutto. Ma, anche, ma come? Pensi un po', Variale, anche la mansarda di Bertone. La mansarda di Bertone, così festini li facciamo lì. Oddio. Da oggi sono Papa Silvio I. Perché lei pensa che dopo aver ceduto al mio mi sarei ritirato? Ma siete tutti dei pirla? Francesco, dillo, Francesco, Franchi, dillo tu. Sì, sì, è vero, è tutto vero. La trattativa è stata lunga, ma adesso finalmente ci siamo accordati. Caro Franz, che ne dici se andiamo a farci un bel abbacchio pasquale? Ti dispiace se ho invitato anche la Brambilla? Sai, ha insistito tanto, lei adora gli agnelli. Ma figuriamoci, mi fa molto piacere. Un bel abbacchio non si rifiuta mai. Un abbacchio alla romana, naturalmente. Ecco, caro Barisoni, ma qua sono caro Barisoni, vorrei tanto essere sentito, Barisoni dopo, ha sentito, dopo tutto questo vorrei tanto essere Barisoni. Andro Mercu, buona Pasqua. Faccio i miei migliori auguri oltre a questo ragazzo che non conosco, come si chiama? Mer? Non ho capito Mercu. Saluto lei, carissimo capuano. Non sono capuano, sono sempre che... Carlo Genta, ma grazie Santo Padre. Andro Mercu nelle sue imperdibili imitazioni. Vettel, Hamilton, Raikkonen, Ricciardo, Massa, 33 giri percorsi sui 57 previsti. Torniamo dopo il GR. Le responsabilità ci sono sempre, nei risultati positivi, nei risultati negativi, e me li prendo sempre, e quindi anche oggi. Credo che con un pizzico più di attenzione abbiamo portato a casa una vittoria importante. La nostra rincorsa è stata lunga e non è ancora conclusa e ci dà ancora delle possibilità. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. TrentoDoc.com. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Sembra l'anno giusto questo per lottare per il titolo mondiale e si è tolto anche ormai quel pensiero di essere andato via dalla Ferrari e l'idea di aver sposato un progetto nuovo, diverso, l'ultimo anno di contratto per Fernando Alonso. È chiaro che con questi tirredio c'è... Sta parlando di Alonso in Sky mentre Hamilton guida la corsa. Io non posso stare senza il mio nome tutelare Leo Turrini. Eccomi qua, caro Carlo. Buona Pasqua. Buona Pasqua, a te, Leo. Ci ascolta. È una gara bellissima. Bellissima, stupenda. Io non so se hai avuto modo di seguirla. Siamo certo, nella fase ormai. Mentre parlo, sono quelli che la guardano, incollato allo schermo. Vettel è stato lungamente al comando. Adesso non sappiamo bene se Hamilton, che ha fatto una scelta di gomme diverse in occasione del pit stop, riuscirà ad andare fino in fondo o meno, perché lui all'ultima pausa, il nero, ha montato le gomme meno tenere, quindi sta tentando di andare al traguardo. Vettel è staccato di poco più di 10 secondi, però attenzione, perché Hamilton deve scontare una penalizzazione per un parcheggio sulla Pero Cormano che ha fatto proprio in occasione della sosta, cioè ha rallentato platealmente Ricciardo che era alle sue spalle in entrata box, e la giuria gli ha dato 5 secondi e quindi? Che verranno sommati al suo tempo, quindi in realtà il distacco che tu vedi adesso sugli 11 secondi di Hamilton, il vantaggio di Hamilton su Vettel è di 6. Cioè se Vettel riesce a recuperarne, e Vettel adesso ha delle gomme più fresche, 6 secondi nei 15 giri e mezzo che mancano alla fine, la corsa la vince Seb, anche se davanti alla bandiera scacchi transitasse per primo Hamilton. È stata anche una partita a scacchi, devo dire che c'è una equivalenza tra Ferrari e Mercedes assoluta, e in più, visto che fanno sempre i primi della classe, non so se tu avevi notato che inizio settimana dopo la Cina, Hamilton aveva detto: noi non faremo mai ricorso agli ordini di scuderia, queste sono cose che fa la Ferrari, e infatti oggi puntualmente è stato fermato. È stato fermato, caldamente invitato, lui pilota pagato a voucher dalla Mercedes, a dare strada al suo capitano. Quindi ma com'è giusto che sia, Leo? Com'è giusto che sia? Ma io non mi scandalizzo, però almeno voglio dire che non vengono a prendersi per i fondelli dicendo noi certe cose. Per carità, mica siamo italiani. Ecco, questo francamente mi ha stufato. Lo hanno fatto, giustamente aggiungo io dal punto di vista della scuderia, però anche questo è un segnale che capiscono in Mercedes che la lotta con la Ferrari è veramente ravvicinatissima per prendere alla terza gara una decisione del genere. Allora, adesso Vettel a 9.7 sta continuando a guadagnare, io ho visto se recupera altri 5 vince la corsa. Intanto stai guardando anche tu le immagini che sto vedendo io, ah, certo. Al rallenti una frenata con la gomma l'anteriore sinistra di Hamilton. Insomma, sembra che alla Mercedes siano pronti al cambio. Eccoli qua, adesso vediamo, penso che abbiano capito che in fondo non ce la può fare ad arrivarci e tenteranno di metterlo sul podio, avendo poi dopo la sosta Hamilton 15 giri con la gomma più fresca e di questo tutti è il momento per andare a prendere Raikkonen e Bottas. Si sta entrando proprio adesso, Cormano si ferma, stavolta non ha Ricciardo dietro da rallentare, perché questo non era un grande sborone, devo dire, ha dei problemi, cambio lentissimo, cambio molto lento. Cioè, 8 secondi e 9 ricordiamo che ci sono quei 5 in ballo di penalizazione per Hamilton. Beh, direi che stiamo quelli, tutti qui, a meno che non venga deciso un condono in extremis da qualche governo simpatizzante per il nero, quelli li deve pagare sul tempo globale. E adesso quindi c'è Vettel che comanda, giusto? Davanti a Bottas e Hamilton a 10 secondi. 15 giri alla fine, no, il distacco di Hamilton è superiore. Questo che vedi è il da tempo quando è entrato, no, non è così vicino. Cioè è a 10 secondi da Bottas, quindi è a quasi 20 secondi da Vettel. Insomma, è terzo a 20 secondi da Vettel. Insomma, sì. Maestro, siamo ottimisti, cosa dici? Beh, insomma, ascolta, adesso 15 giri, siamo nel deserto, temperature terribili, poi io sono anche molto scaramantico, poi sono dell'Inter, magari la Mercedes batte un calcio d'angolo al settimo minuto di recupero, hai capito? E allora è meglio che io, insomma, mi trattenga e non dico nulla. Per ora le cose si stanno mettendo come si sperava, ma c'è ancora questo pezzo finale, teniamo le dita incrociate, hai capito? Sarebbe una grande Pasqua Ferrari. A Formula 1 ha corso spesso a Pasqua, sai? Sì. In particolare mi fai venire in mente il 1989, allora era marzo nel calendario, si correva in Brasile, eravamo a Interlagos, l'ultima volta a Interlagos, e lo dico toccando ferro, acciaio e quant'altro, fu una Pasqua rossa perché vinse la Ferrari di Nigel Mansell, che debuttava sulla vettura del cavallino. Quindi insomma, speriamo, andiamo a vedere. Vettel mi sembra in pieno possesso delle sue facoltà, un po' meglio Vettel della difesa dell'Inter nei 10 minuti di ieri. Ecco, direi che Vettel ha una padronanza superiore, non pare intento a cedere al nervosismo. Ecco. Ma intanto un tuo possibile futuro prossimo allenatore sta perdendo 2-0 sul prato del Manchester United. Manchester United 2. Tu dici José Mourinho che potrebbe decidere romanticamente di tornare all'Inter. Allora, Conte deve stare attento però, perché deve stare attento adesso... cioè, no, deve stare attento, nel senso che se veramente io sto secondo campionato perde questa partita, il Tottenham ha 4 punti e il prossimo turno in Premier League c'è Tottenham-Chelsea. Eh sì, c'è Tottenham-Chelsea, quello sì che è un campionato aperto, altro che il nostro, che dove c'è la Juventus che sta facendo un po' come effetto. La Juventus va da sola, ormai da molti anni. Io infatti ogni tanto sorrido quando voi del calcio dite ma la Formula 1 è noiosa. Vi posso anche dare ragione, ma è la Serie A che meritatamente, per carità, sono 6 anni che vince sempre la stessa squadra e con largo anticipo. Allora che cos'è? Noiosissima? Assolutamente sì. Perché le dinastie sono... Calcio, però avete partite come Palermo, Bologna, 0-0 di... Mi piace questo avete. In ogni sport le dinastie... Calcio d'angolo, il settimo minuto di recupero. Ho capito, non ti è andato ancora giù. È stato come Chimi. Oggi, quando ha sorpassato Massa in pista, gli hanno sbagliato il pit stop e l'hanno rimesso in pista dietro Massa. Che sembrava un duello tra vecchi Rimba, hai capito, che si ritrovano lì, insomma. Intanto io difendo il partito, l'ho fatto prima con Antonio Boselli, che sarà lì con te, difendo il partito che abbiamo fondato, di cui io sono umile portaborse, pro Chimi l'anno prossimo. A parte la partenza, Chimi sta facendo una grande gara, comunque mancano 13 giri. Mancano 13 giri, stiamo attenti. Grazie Leo. Ti lascio seguire. Buon lavoro anche a te. Ciao Leo Turrini. Allora, ci fermiamo un attimo con Vettel che comanda il Gran Premio, come detto, giri 44 su 57, Marco da Varese in linea, traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Le responsabilità ci sono sempre, nei risultati positivi, nei risultati negativi, e me li prendo sempre, e quindi anche oggi. Credo che con un pizzico più di attenzione abbiamo portato a casa una vittoria importante. La nostra rincorsa è stata lunga e non è ancora conclusa e ci dà ancora delle possibilità. Questo di nuovo Pioli, Vettel che ha 9 giri dalla conclusione, 11 giri dalla conclusione, continua a guidare il Gran Premio in Bahrain con un vantaggio rassicurante su Bottas più 10 secondi e 24 su Hamilton, che peraltro deve scontare anche 5 secondi di penalità e quindi potrebbe essere una grande Pasqua rossa. Intanto, ripeto, lo United conduce 2-0 sul Chelsea di Antonio Conte. United di Mourinho 2, Chelsea di Conte 0. Marco, buongiorno. Buonasera, dottor Carlo Genta. Grazie per esserci venuti a trovare anche nel giorno di Pasqua. 800-24-0024. Buona Pasqua, naturalmente. Buona Pasqua. Senta, allora, io per me ieri è stata una giornata in chiaroscuro. Sono un tifosissimo dell'Inter. Sono stato deluso della rimonta del Milan a 7 minuti di recupero, però in compenso è stata una bellissima giornata per la promozione in Serie B del Venezia di Pippo Inzaghi, Tacopina e Perinetti. Si pensa in grande qua in Laguna, caro dottor Genta. Si punta alla Serie A e fa forse un paio d'anni. Comunque vorrei parlare diciamo così, più che altro di cambiare allenatore in Pioli. Io all'Inter mancherebbe una grande figura societaria, per esempio un Galliani, uno alla Marotta, tanto per intenderci. Per esempio, secondo lei ci vorrebbe un grande dirigente come per Paolo Marino, che lo vedo anche nei salotti della Rai a commentare il calcio. Il nostro grande amico, anche ospite frequente, anche qui a Radio 24, il nostro grande amico. Allora, io sono curioso di capire quali siano i piani di Suning e come li voglia sviluppare. Dopo aver capito questo, si capirà anche il nome dell'allenatore, si farà il mercato. Per adesso io continuo a pensare che non sarà questo finale di campionato a decidere il destino di Pioli. Mio amico Mario Boni, credo non gli sia ancora passata, nemmeno a lui, come a Leo Turrini. Ciao Mario, grazie, buona Pasqua. Carlo, buona Pasqua. Ciao. Non ti è ancora passata, no? No, ero incazzato ieri. E sei incazzato oggi. No, Io credo che insomma la gestione di Pioli sia stata negativa, assolutamente negativa. Poi, riprendendo quello che ha detto la radioascoltatore adesso, credo che una figura importante all'Inter sia necessaria, ecco, anche per capire la serie di acquisti che ha fatto l'Inter negli ultimi anni, da Condobbia a Gabigol. Adesso Gabi non gol, diciamo che Gabi non gioca. Esatto, Gabi non gioca, quindi è una gestione enigmatica e devo dire purtroppo Pioli ha sbagliato già contro la Roma, poi contro il Crotone e contro il Milan ieri nel derby. Le sostituzioni mi hanno lasciato molto a desiderare, ecco. Sì, anche la condizione fisica non mi sembra più brillante, c'è l'attenuante del fatto che l'Inter si è trovata dopo essere partita da ferma praticamente con De Boer a provare questa disperata rincorsa Champions League. Tu sai bene che quando si tentano le rimontone anche nel calcio, non solo nel basket, insomma si fa fatica, eh. Sì, difficile. Noi abbiamo pagato pesantemente la gestione Mancini, dopodiché è stata tutta una rincorsa. Pioli poteva essere l'uomo giusto, a mio avviso non lo è più, però ieri hanno partita da vincere. Non lo è più per i risultati, no? Perché allora... Perdonami, ma le sostituzioni ieri hanno pesantemente pregiudicato il risultato. Allora, se io voglio capire che cosa vuole fare Suning. Secondo me un gruppo come questo che prende l'Inter, che ha appena preso l'Inter, vorrà costruire una squadra per sfidare la Juventus. Se voglio costruire una squadra per sfidare la Juventus, anche se Pioli arrivasse quinto, sì, andrei alla ricerca di un allenatore che conosce la strada, anche dal punto di vista dell'immagine. Certo. Quindi sto parlando di quello che adesso sta perdendo 2-0, cioè Antonio Conte, di quello che adesso sta vincendo 2-0, cioè Mourinho, di quello che sta a Madrid con il bianco e il rosso, Simeone. Se io volessi costruire una grande squadra, poi è vero che c'è da costruire una società, una dirigenza, questo vale a maggior ragione per il Milan, dove si capisce ancora di meno, però insomma io... No, ma hai ragione, Carlo, hai ragione, perché ci sono ormai gli allenatori, sono manager che fanno tutta la squadra, quindi da Mourinho ci vogliono questi, a cominciare da Mourinho, ci vogliono allenatori che abbiano questa grande personalità e la capacità di costruire, anche perché io ad oggi non ho ancora capito chi fa la campagna acquisti dell'Inter, cioè gli acquisti di João Mario, Condobbia e Gabriel Barbosa, chi li ha fatti, chi li ha approvati, chi li ha gestiti e chi farà la prossima campagna acquisti. Ci vuole un allenatore che abbia grande personalità, che non subisca gli acquisti ma li faccia, li decida, che abbia modo di, come dire, di essere predominante nella gestione dell'Inter. Dunque c'è stato Mendes che si è interessato alle faccende dell'Inter, ha portato Gabigol, Condombià è una vicenda precedente, lo so che a te non piace, però bisogna dire che con l'ultimo acquisto fatto dall'attuale dirigenza dell'Inter, da Piero Ausilio, cioè Gagliardini, sì, mi sembra che si sia parecchio sistemato, e a me la coppia Condombia-Gagliardini non dispiace affatto. No, agghiacciante, no, io ritengo, mi dispiace che non sono d'accordo, ritengo che Gagliardini sia un ottimo acquisto. Io devo capire il ruolo di Ausilio all'interno dell'Inter, l'acquisto di Condobbia è stato un fallimento totale, ma quello che mi dispiace è che non è l'errore che uno fa, ci sta a sbagliare un acquisto, è ammetterlo, non si può stare in paradiso rispetto dei santi, quando il giocatore non rende, è ormai al terzo anno, bisogna prendere atto che è un giocatore sì discreto, però come lui, che è un giocatore di corsa, ma non ha scatto, non ha lancio, non ha tiro, non ha visione di gioco, non ha nulla, bisogna prendere atto che è stato un fallimento e quindi porre il rimedio. L'altro acquisto, Gabriel Barbosa, perché è stato acquistato? Un tifoso dell'Inter ha diritto di sapere questi acquisti. Gabigol, perché è stato preso per 30 milioni? È bravo, gioca titolare nel Brasile, perché nell'Inter ha giocato 15 minuti? Queste sono le risposte che i tifosi dell'Inter devono avere. Dammi tu una risposta, Conte lo vorresti? Io contro lo vorrei, cioè come? È un allenatore vincente, anche se oggi perde contro il nostro imperatore, però lo vorrei. Non ti importa che sia stato bandiera della Juventus, no? No, ma io ricordo la dichiarazione di Conte quando disse: ma lei allenerebbe mai l'Inter? E lui gli rispose: io sono un professionista e quindi io apprezzo le persone che dire, è il suo lavoro, per quale motivo deve mettere questa barriera, no? È stato un grande allenatore, è stato purtroppo, per fortuna per la Juve, il suo allenatore, io lo prenderei perché è un allenatore capace di grande personalità, e l'Inter ha bisogno di persone con personalità, scusatemi il gioco di parola. No, no, io sono d'accordo con te, Mario, sono d'accordo con te, non sono tifoso, ma sono d'accordo con te. Ci sono poi degli interisti che sono invece un po' più integralisti, come il nostro amico Enrico Ruggeri, che dice: no, Conte sulla panchina dell'Inter. Io voglio vincere, voglio tornare a essere protagonista in Italia, voglio tornare a essere protagonista in Europa. Ci vuole un allenatore che abbia la forza di imporre le proprie scelte, e solo chi ha vinto può imporre le proprie scelte. Pioli per me può essere un buon allenatore, ma non ha vinto nulla e sconta questo deficit di autoreferenzialità. Allora, Ferrari con il Gran Premio in pugno a 6 giri dalla conclusione, Vettel ha 8 secondi, quasi 9 secondi di vantaggio su Hamilton, che sono 9 ma si leggono 14 per una penalità che Hamilton dovrà scontare. Grandissima gara della Ferrari di Sebastian Vettel. Diamogli una botta di basket, Marione, per finire. Senti, appassionante anche qui, appassionante come nel campionato di Serie A già finito, già vinto dalla Juventus, a mio modo di vedere. Esatto. Quindi non è che c'è tanto da girarci intorno, però molto interessante quello che sta succedendo dietro, con il Napoli che potrebbe andare a prendere la Roma, con le posizioni di Europa League ancora da definire, gli stacchi sono minimi, eccetera. Anche qui un campionato di Serie A che ieri ha visto Milano segnare 68 punti sul campo di Brindisi perdendo di 2. E una bella ammucchiata di squadre che aspirano ad entrare nei playoff. Il bello sta dietro. Ma è un campionato bello, sì, molto equilibrato, non eccesso dal punto di vista tecnico, però direi appassionante. Basta vedere la rincorsa di Varese, che sembrava spacciata, sembrava retrocessa, e poi sta per agguantare, forse riuscirà a entrare nei playoff. Ritengo che Milano abbia ancora grande vantaggio a livello tecnico sulle altre squadre, ha tanti problemi di infortuni, e mi sembra che stia aspettando i playoff. Però attenzione ad Avellino, perché nonostante abbia un po' deluso nelle ultime giornate, il ritorno di Fesenco, Logan che sarà sempre più inserito, è una squadra già di per sé molto competitiva, potrebbe essere la grande sorpresa anche la stessa Venezia. Quindi un campionato molto appassionante. Il fatto che si giochi playoff tra le 5, al meglio delle 5, al meglio delle 7, rende ancora più equilibrate e divertente le serie finali. Buona Pasqua Mario, ancora, grazie. Anche a voi. A presto. Ciao a presto. Tutti. Grazie Mario Boni. Giuseppe da Bologna, prima di fermarci per una breve pausa, mentre Vettel è sempre al comando della corsa in Bahrain, mancano 5 giri alla conclusione, alla gara in pugno, più 8 secondi di vantaggio abbondanti su Lewis Hamilton. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, dica. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Volevo fare una proposta e una domanda. La proposta, rendere il campionato... Mi sente? Sì. Allora, per rendere il campionato più interessante, non sarebbe bello che per esempio sulle partite del girone di ritorno venisse fatto anche il punteggio che si ha per esempio per le coppe europee? Voglio dire, oltre al risultato classico della partita, quindi 3 punti, 1 punto, 0 punti, si potrebbero aggiungere i punti considerando anche la partita di andata, quindi mettere un punto in caso di parità fra le due partite e aggiungere magari 2 punti per chi nel doppio confronto vince, come succede nelle coppe, no? Non ho capito benissimo. Non è chiaro? Supponiamo che una squadra... Un po' complicato. Come? No, mi sembra un po' complicato, più che altro... No, sarebbe semplicissimo. Sarebbe... Io ho fatto un raffronto così per divertirmi, perché sì, essendo pensionato... Che succederebbe? Che succederebbe? I campionati sarebbero estremamente molto più... indecisi. Ma vede, il vero problema è che bisognerebbe ricorrere a questi artifici, per artifici, come si dice, ragazzi, a queste soluzioni diverse per rendere i campionati equilibrati. Cioè, il problema sta a monte. Il problema vero è che quasi ogni campionato europeo ci sono delle dinastie. In Italia della Juventus non si sa quando finirà questa egemonia, speriamo presto per il bene del calcio. Io continuo a ripetere, dicevo, quando la Juventus doveva era dopo Calciopoli, doveva rientrare nei grandi giri, insistevo nel dire che il calcio italiano ha bisogno di una Juventus forte. Ora insisto nel dire che il campionato italiano ha bisogno di una Milano del calcio che torni ad essere forte. Ovviamente serve la Roma, serve il Napoli, Però è molto difficile nel calcio attuale. Ci troviamo tante corazzate nei rispettivi stagni. Il Bayern di Monaco vince il campionato tedesco da 1000 anni ormai, a marzo, quest'anno un po' più tardi, però ce l'ha in pugno. Meno male che in Francia qualcosa succede con il Monaco dei miracoli, se no è stata anche lì dinastia Paris Saint-Germain, dopo che c'è stata una lunga dinastia del Lione. Questo non succede in Inghilterra perché? Perché lì il grano ce l'hanno tutti, a differenza di quanto accade negli altri campionati. In Spagna è Barça o è Real, con qualche rottura di scatole da parte dei biancorossi di Simeone. Se volete torniamo a parlarne dopo questa breve pausa. 800 24 00 24, tre giri la conclusione. Vettel saldamente al comando del Gran Premio del Bahrain. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Adelante. Para adelante. Nosotros podemos salir contra la Juve con 8 delanteros. Qué arriesgado, no tenemos nada que perder, ya lo tenemos todo perdido. Y además el Barça siempre se ha caracterizado por ser un equipo de ataque, con lo cual en ese sentido no hay ninguna duda. Una cosa è certa, che bisogna andare laggiù per giocare e fare gol, perché non possiamo pensare di difendere 3-0, quindi bisogna fare una partita tosta, fisica, tecnica, e bisogna controbattere il Barcellona colpo su colpo, quindi per far questo ci vuole coraggio e bisogna correre per l'avanti. Andiamo a fare un salto in Spagna da Filippo Maria Ricci, mentre siamo alle battute finali in Bahrain e Vettel ha saldamente in pugno il Gran Premio, ultimo giro, Vettel davanti ad Hamilton, Bottas e Raikkonen, Ferrari che si avvicina alla seconda vittoria nelle prime 3 gare stagionali e quindi grande Pasqua rossa in dirittura d'arrivo. Ciao Filippo. Filippo Maria Ricci, lo richiamiamo Filippo Maria Ricci, intanto attendiamo insieme l'arrivo di Vettel. Strategia di gara perfetta da parte del muretto Ferrari, due pit stop per tutti i leader della corsa. Mi fa una tristezza da morire Alonso, che si è da poco fermato, ma era 14esimo. Mi fa soffrire quasi fisicamente vederlo così indietro in ogni corsa, per un pilota che è ancora forse il miglior manico che c'è in circolazione, con tutto il rispetto per i signori che comandano questa Formula 1. Intanto vi aggiorno anche su quanto sta succedendo all'Old Trafford, con il Manchester United che a 10 minuti dalla conclusione sta vincendo 2-0 sul Chelsea di Conte. Dunque al prossimo giro c'è il confronto diretto Chelsea-Tottenham. Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a lei. Senta, mentre in questo momento la Ferrari vince il Gran Premio del Bahrain, e ti do questa notizia, con Vettel davanti ad Hamilton, Bottas e Raikkonen, dunque per un pelo anche era... Anche Raikkonen quarto, dunque Vettel primo, Hamilton secondo, Bottas terzo, Raikkonen quarto, grande gara della Ferrari e di Vettel. Abbiamo un campionato del mondo, è ufficiale. Non so se avremo ancora un confronto. Non so se avremo ancora un confronto tra Juventus e Barcellona, perché se ti devo dire la verità, a me le conferenze stampa di Luis Enrique negli ultimi giorni fanno un po' sorridere. Giocheremo con 8 attaccanti. 8 delantero. 8 delanteros, e se sì, non è vero che possono farlo, però non sanno che... più difendere, questo è il problema. Hanno preso 7 gol in 3 partite, esatto. Cioè, hanno pure perso, attenzione, ieri sera hanno perso anche il possesso palla, che sai che a Barcellona è come la manita. Beh certo, certo, perdere il possesso palla ieri in casa, poi 51-49 della Real Sociedad, che è una bellissima squadra, è molto bella da vedere, grande calcio. e ieri sera ha avuto un sacco di occasioni, hanno fatto due gol, poi ne hanno presi tre, sono lì attaccati al povero, al nano barbuto, cioè a Leo Messi, è solo con lui che possono sperare di far qualcosa. Gioca da solo, poveretto, l'abbiamo visto anche a Torino, no? Sì, ha sì, volte, sì. I compagni davanti a Buffon, ragazzi, non è che può dare il passaggio? No, ma poi Luis Enrique che ha fatto un triplete meraviglioso, che mi piace come personaggio e come allenatore, sentirlo dire, beh, ma in fondo con il Paris Saint-Germain eravamo messi peggio, grazie, ma il Paris Saint-Germain non è tanto la Juventus, mi sembra qualcosa di diverso. Dimmi, ma no, quando dice che non abbiamo sbagliato niente, bravo, giove, anche lì. Quando dice no, ma io ho sbagliato niente. No, regalami pure quel signore con i capelli rossi contro Quadrato che gli ha fatto un mazzo così. Esatto, no, cioè, ma allora sì, continua a mandare Mascherano a marcare Chiellini sui corner. Mascherano a marcare Chiellini sui corner, cioè, no, sì. Però non ha sbagliato niente, eh. Era tutto calcolato. No, non ha sbagliato niente, gioca Novaloccio delantero. Ieri di nuovo poi ha fatto stare in panchina, ieri se l'è presa col povero giornalista di Canal Plus, di Movistar Plus, che la persona onesta, tranquilla, che ha detto, scusa, ieri di nuovo ha fatto riposare Iniesta. Allora lui gli ha dato anche, dice, va bene, l'hai fatto per turnover o perché Andre Gomez è meglio. E conta che Iniesta è stato titolare 8 partite in campionato, quindi insomma sono pochine, va bene fare il turnover, però è stato un po' travolto dal turnover, no? E lui gli dice, questa è una domanda ridicola, l'ha trattato malissimo, insomma, lo vedo un po' perso la testa, insomma, come del resto la squadra. Poi voglio dire, chiaro, ci hanno messo, c'è un Neymar nelle squadre, per cui non possiamo, dobbiamo aspettare. Sì, no, dobbiamo, secondo me, guarda, dobbiamo giusto aspettare. La Juventus non mi sembra esattamente il tipo di squadra che vada a farsi prendere a pallonate come lo stordito Paris Saint-Germain che abbiamo visto in un'impresa che capita una volta nella vita, dai. Non mi sembra un Barcellona in grado di costruirsi una seconda impresa che sarebbe molto più grande della precedente, onestamente, visto l'avversario. Assolutamente. Poi dobbiamo sempre ricordare che anche la Juventus perdendo 4-1 passa, che insomma non è, voglio dire, però io dico, il Barcellona, lui dice sì, sta a attaccare, ma no, non sa più difendere, voglio dire, contro una squadra come la Juventus non difendere, io la vedo dura per il Barça. Poi il calcio è fatto di tante storie, abbiamo visto 3 settimane fa, però sinceramente poi ti dico anche lui, ieri sera io sono rimasto molto molto colpito dall'immagine finale, escono dal campo Suarez e Messi, mano davanti alla bocca per non farsi leggere il labiale, però erano due facce assolutamente turbate, felici, avevano vinto, però come dire, qua è un disastro. Senti, poi mi dicono di uno screzio anche con Piqué, tra Luis Enrique e Mascherano ha mandato, guarda, storie di fine impero. Io dico storie di fine impero. A me sembra che insomma, il Barcellona sia di fronte ad un ricambio generazionale, ma com'è anche normale che debba essere. Grazie Filippo, ci sentiamo presto nei prossimi giorni, ovviamente. Ciao, buona Pasqua di nuovo. Allora, sentiamo ai microfoni di Sky. Arriva bene, che ha vinto il Gran Premio del Bahrain. Parole importanti, mancava la terza, anche un pizzico di follia. E questi sono i valori di questa squadra, dei ragazzi che stanno a Maranello e di chi ha fondato la Ferrari 70 anni fa. Coraggio e determinazione, perché ieri abbiamo fatto una qualifica pensando alla gara. E ci voleva non solo coraggio e determinazione, ma anche un pizzico di follia. E questa è la Ferrari, ragazzi. Vuoi prenderti la soddisfazione di sottolineare quanto sia stata veloce la Ferrari quest'oggi anche nei confronti della Mercedes? Ma guarda, non si fanno confronti, adesso dobbiamo pensare alla prossima gara e andare avanti, e buona Pasqua a tutti. Un'ultimissima cosa, posso chiederti cosa vi siete detti col presidente Marchionne subito al telefono dopo la vittoria di Sebastian? Ci siamo fatti gli auguri, buona Pasqua. Bella Pasqua, con una bella sorpresa. Sì, di sicuro. Questo Maurizio arriva bene, dunque c'è chi mi scrive, un WhatsApp, ha vinto la rossa, un po' di entusiasmo, sembra che ti sia morto il gatto. Ha vinto la rossa! La Ferrari ha vinto! Ma meglio così. Che sono 2 ore che che sto seguendo con apprensione, sto cercando di raccontarvi mentre parlo la meravigliosa gara di Vettel e della Ferrari, tra l'altro Raikkonen quarto e in mezzo a condire questo panino le due Mercedes. Ci fermiamo per un attimo e poi un altro evento di questa domenica di Pasqua. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presento. Tutti convocati. Parte Kwiatkowski, vince forse lentamente, ma Gilbert sta provando adesso a rimontare. La rimonta di Philippe Gilbert negli ultimi metri, esce Gilbert in testa a testa, Philippe Gilbert! E sono quattro per Gilbert, secondo posto per Michal Kwiatkowski, Albasini completa il podio. Questo era l'arrivo della Amstel Gold Race che si è corsa oggi. Ciao Pier Augusto Stagi. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Italiani come sono andati? Nono è arrivato Sonny Colbrelli. Ah, quindi benino. È una gara molto dura. È stata bellissima. Guarda. Ci dobbiamo. Adesso non voglio portare fino al mio mulino, ma quest'anno stiamo assistendo a delle classiche stupende, bellissime, sì, sì, vinte da grandi corridori. Corse in maniera eccezionale, spettacolo e adrenalina fino all'ultima. Anche oggi una gara eccezionale. Guarda, la noia a 50 km già era sparita, a 35 Gilbert ha sgasato, ha fatto il vuoto, è rimasto con 6 corridori, poi capolavoro di Kwiatkowski che era nel gruppettino di Greg Van Avermaet insieme a Fabio Fellini, al nostro Colbrelli, da solo è rientrato sul gruppettino di testa, poi è stato quello che ha promosso l'azione finale e ha portato via solo Gilbert, sono arrivati loro due, ha cercato il campione, vorrei sottolineare due ex campioni del mondo, due grandi cacciatori di classiche, il vincitore della Sanremo contro il vincitore del Fiandre, c'è stata la bella, sembrava un po' la ripetizione della volata tra Sagan e Kwiatkowski, ma questa volta la figura del pollo l'ha fatto Kwiatkowski, ma pollo sì, sì, tra virgolette, perché nella sostanza nelle gambe sì, ne aveva di più Gilbert, mentre, vinto molto molto bene. Mentre sotto le stelle del Bahrain suona l'inno di Mameli per la vittoria di Vettel, un peccato che l'inno di Mameli faccia fatica a suonare in queste grandi classiche. Ha lasciato a casa il disco, mi sa. Sì, però io non voglio essere così negativo. A proposito di Bahrain, il Bahrain c'è anche una squadra di ciclismo che è esattamente quella di Sonny Colbrelli, che è poi quello che speriamo possa portare fortuna a Vincenzo Nibali per il prossimo Giro d'Italia. Abbiamo degli interessantissimi giovani, molto giovani, come Gianni Moscon che ha solo 22 anni, Sonny Colbrelli che è lì per diventare maturo, però è molto giovane per queste corse, perché l'Amstel, la corsa per la prima volta l'anno scorso, questa qua era la sua seconda partecipazione, l'anno scorso terzo, quest'anno nono. Abbiamo tanti giovani che si stanno affacciando, dobbiamo avere un briciolo di pazienza, sicuramente sì, quest'anno, ma io credo che già dal prossimo anno, anche nelle corse di un giorno, il ciclismo italiano tornerà a recitare il ruolo che gli compete. Pier Augusto, intanto ci sentiamo prestissimo, Giro d'Italia alle porte, naturalmente purtroppo senza Fabio Aru e sanguine al cuore. Giro d'Italia che parte dalla Sardegna. Non mi dire niente. Sanguine al cuore. Vabbè. Ci aggrappiamo al nostro siciliano, allo squalo dello stretto, sì, e speriamo bene. E ci aggrappiamo al famoso detto, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Eh sì, molto. Ciao Pier Augusto, a presto. Ciao Carlo, ciao. Buona Pasqua a tutti. E noi chiudiamo la puntata di Pasqua con il professor Giorgio Terruzzi. Meglio di così si muore. Altro proverbio, altro modo di dire. Ciao Giorgio. Buongiorno, buon pomeriggio. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, Pasqua tutta rossa. Hai visto che sorpresona dentro l'uovo? Ma veramente, vuol dire che ci siamo. Cioè, vuol dire che questo sarà un mondiale a due, perché abbiamo visto i soliti due e mancano ancora gli altri due. Raikkonen sempre fuori dalla lotta per la vittoria, Bottas non ancora con quel passo lì. Una gara che mi è sembrata una partita a scacchi, no? Bella, con una penalità decisiva alla fine, una rimonta da libri di storia secondo me, sì. E un grandissimo, una grandissima Ferrari secondo me, molto veloce in gara sempre, molto, molto in palla, molto, una bella macchina questa qua. Sì, è una bella macchina che non ci aspettavamo, Giorgio, in tutta onestà. No, non ci aspettavamo, io da tifoso e amico di Binotto ci speravo, penso che questa cosa qui sia una cosa, questo esito sia risultato di un bel lavoro di squadra e testimonia ormai il fatto che non c'è più il genio Newey, il leader assoluto, c'è sempre una struttura orizzontale, tanta gente che lavora, bravi, tanti ragazzi che magari aprono un ciclo che non conosciamo neanche. Sì, sembrava un miracolo perché comunque il vantaggio della Mercedes era tale per cui ci siamo raccontati addosso molte volte che in un'estate non cioè in un inverno di lavoro non riesci a colmare un gap di quel tipo, eccetera eccetera eccetera. Dove sta la verità? Beh, hanno osato un po', hanno fatto qualche azzardo, quelle pance lì sono un azzardo riuscito, quindi non si sono limitati per una volta. Credo che questa sia una cosa importante, perché molte volte i progettisti Ferrari hanno avuto una prudenza da pressione, no? Non esagero, non oso, perché se faccio una stupidaggine mi saltano addosso tutti. Questi qui hanno provato, hanno osato, forse anche coperti dal fatto che sono un gruppo, che non sei tu che sbagli. La Mercedes ha fatto un cambiamento rilevante cambiando il passo, e questa cosa qui forse rallenta un po', abbassa un po' la messa a punto in questa fase, però insomma è una macchina piena di belle notizie, cioè di concretezze, non di fortune. A questo punto mi pare di poter dire di certezze, perché se l'Australia, anche questo ce lo siamo detti ripetuti mille volte, è una corsa particolare quella che apre la stagione, un tracciato particolare non molto indicativo, poi già dalla Cina abbiamo trovato delle risposte, nonostante il secondo posto, quindi una gara non vinta, però abbiamo trovato delle risposte stampate sui fogli che dicono che il passo gara è lo stesso. Sì, sì, sì, sì. Poi sono tre gare, paradossalmente Hamilton e Vettel non si sono mai trovati ai ferri corti in tre gare, cioè non abbiamo mai avuto un confronto davvero alla pari per capire questa cosa qui, cioè come funzionano con lo stesso carico di benzina e le stesse gomme, lo capiremo più avanti. Certamente è una macchina che non prende 6 secondi in tre giri i primi, come succedeva prima, quindi te la giochi, vuol dire che ogni gara poi... Questo sarà un mondiale basato probabilmente sugli errori, sulle stupidate, sui piccoli, come certo, oggi. Certo. Cioè, saranno a questo punto... Quest'anno Hamilton non può permettersi di fare, come ha detto l'altro giorno Briatore ai nostri microfoni, troppo il pirla facendo il disc jockey. No. Bene, credo anche per lui. In effetti molto fasato lui, Lui sempre in spolvero in queste tre corse. Giorgio, esiste un problema secondo pilota alla Ferrari secondo te? Ma insomma, io lo penso da molto tempo, mi tiro addosso critiche di tanti, secondo me sì, ma esiste da un po', però è inutile. Io non sono d'accordo con la critica che ha fatto Marchione a Raikkonen dalla seconda corsa pubblica. Cioè il pilota che farà quest'anno è un ragazzo molto fragile che va protetto e va tutelato, e il problema è che non mi sembra non ce la faccia tenere il ritmo di quei due lì quando le macchine sono da prima linea. Un'ultima cosa che ti chiedo riguarda la tristezza di Alonso, che rimane secondo me ancora il miglior manico presente nel circus, nonostante guidi un tollone mostruoso, e allora lui dice: bene, a Monte Carlo non vengo, vado a girare su un ovale. Beh, è il più figo di tutti. Perché uno che ruba la scena a questi qui in un weekend così ci vuole un certo talento. Sarà dura per lui, ma mi viene voglia di andare là invece di andare a Monte Carlo. Assolutamente. Cioè, è un'avventura straordinaria. Assolutamente. Si è talmente rotto le scatole, non ne può talmente più, ma io lo capisco. Da fare questo. Grazie, sì. Giorgio. Grazie a voi, buona domenica. Buona ciao, Pasqua. Buona Pasqua, ciao, Giorgio Terruzzi. Ciao, ciao. Chiudiamo con Luca da Milano. Interista, milanista. Sera, Mirlo, buona Pasqua per le ultime 5 ore di oggi. io sono interista, presidente dell'Inter Club. Volevo intervenire a seguito di quello che ha detto Boni, il cestista, poco fa. Sì. Non sono molto d'accordo con lui. Su cosa? Su sulla questione Pioli, nel senso che tanto le do il feedback dei tifosi. Due settimane fa eravamo 99% per rimanere Pioli, mantenere Pioli. Adesso naturalmente c'è stato un po' un cambio di feeling, soprattutto dopo ieri e anche dopo come è entrata in campo la squadra nelle ultime due o tre partite col Crotone e la Sampdoria anche. E però quando sento dire che Pioli è autoreferenziale, non so dove l'abbia letto Pony, cioè io non ho mai sentito molto autoreferenziale. No, non è autoreferenziale. Intanto un possibile futuro allenatore dell'Inter ha appena perso 2-0 sul prato del Manchester United di un ex molto rimpianto allenatore dell'Inter. 2-0 per lo United sul Chelsea e campionato inglese che con Chelsea, Tottenham alle porte e col Tottenham a meno 4 è davvero aperto, non come quello italiano che è totalmente chiuso. No, piuttosto Luca, io non credo che, mi ripeto anche qui, ma questa è la mia posizione, si tratta di capire che cosa si vuole diventare da grandi, giusto? Per decidere esatto. L'allenatore. Allora, se Suning ha l'idea di costruire una squadra che voglia dall'anno prossimo sfidare la Juventus, non è dalla partita col Crotone o dal derby o da un mese da un mese buio che può dipendere la scelta dell'allenatore. Posso dire la mia però su questo? Sì, certo. E mi riconduco a sapere anche perché è assurdo che in 5 anni l'Inter non stia dicendo niente, nonostante anche gli investimenti fatti. Però mi riconduco a quello che mi ha detto Vieri una volta che l'ho incontrato su un volo sì. E pochi giorni fa nella sua intervista ha detto due cose. La prima è che noi in Italia diamo troppo importanza agli allenatori, quello che contano sono i giocatori. E la seconda, che è relativa invece all'Inter, è che l'Inter, il problema dell'Inter è che si cambia sempre troppo. Questo è vero, però mi sembra necessario, insomma, rispetto all'Inter che del passato, mi è sembrata necessaria una rivoluzione e saranno necessarie probabilmente altre rivoluzioni. Ci fermiamo qui, ragazzi. Buona Pasqua di nuovo a tutti. Claudia Schiattone, il nostro autore. Pietro Lacorte, ora in regia. Domani alle 14, tutti convocati. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti!